372. Pasticcio di lepre. Chi non ha buone braccia non si provi intorno a questo pasticcio. La natura arida delle carni della bestia di cui si tratta e il molto ossame richiedono una fatica improba per estrarne tutta la sostanza possibile, senza di che non fareste nulla di veramente buono. Quello che qui vi descrivo fu fatto alla mia presenza nelle seguenti dosi e proporzioni sulle quali, regolandovi, ritengo non sia il caso di sciupare i vostri quattrini. Mezza lepre senza la testa e gli zampucci. 1 chilogrammo. Magro di vitella di latte grammi 230, burro grammi 90, lingua salata grammi 80, grasso di prosciutto grammi 80, prosciutto grasso e magro tagliato grosso mezzo dito grammi 50, detto tagliato fine grammi 30, tartufi neri grammi 60, farina per la balsamella grammi 30, marsala deciliti 3, uova numero 2, latte mezzo bicchiere, brodo quanto basta, dalla lepre. Dopo averla lavata ed asciugata, levate grammi 80 di magro dal filetto o altrove e ponetelo da parte. Poi scarnite tutte le ossa per separarle dalla carne, rompetele e ponete anche queste da parte. La carne tagliatela a pezzi e coi suddetti grammi 80 di magro, lasciato intero, mettetela in infusione con 2/3 circa della detta marsala e coi seguenti odori tagliati all'ingrosso. 1/4 di una grossa cipolla a mezza carota, una costola di sedano lunga 1 palmo, diversi gambi di prezzemolo e 2 foglie di alloro. Conditela con sale e pepe, rivoltate bene ogni cosa e lasciatela in riposo diverse ore. Frattanto nettate dalle pelletiche la carne di vitella di latte, sminuzzatela col coltello e pestatela nel mortaio quanto più fine potete. Scolate dalla marsala la carne messa in infusione e con tutte le ossa, gli odori indicati, il grasso di prosciutto tagliato a pezzettini e grammi 30 del detto burro, ponetela in una cazzaruola coperta e a fuoco vivo lasciatela rosolar bene, rimuovendola spesso col mestolo e bagnandola quando sarà asciutta con marsala, servendovi anche di quella rimasta dell'infusione. E con brodo fino a cottura completa. Allora separate nuovamente la carne dalle ossa e rimettete da parte gli 80 grammi di magro per formare con questo, coi grammi 50 di prosciutto e con la lingua, tanti filetti grossi più di mezzo dito. Pestate prima tutta la carne della lepre nel mortaio, bagnandola di quando in quando per renderla più pastosa, ma non troppo liquida, col resto della marsala e col brodo, e passatela, poi pestate le ossa e procurate che passi di queste tutto quel che più potete, avvertendovi però occorrervi a quest'uopo un ostaccio di fil di ferro. Ora fate una balsamella con grammi 30 del detto burro, la farina e il latte indicati e, cotta che sia, versate nella stessa cazzaruola tutta la carne passata, tanto quella della lepre che della vitella di latte cruda. Aggiungete le 2 uova, mescolate bene ed assaggiate il composto se è dosato giusto di condimenti, per aggiungere, se occorre, sale e il resto del burro. Adesso incassate il pasticcio con la pasta qui sotto descritta e, per riempirlo, regolatevi come nel numero 370 i tartufi tagliateli a tocchetti grossi come le nocciole e così crudi e con tutti i filetti descritti, disponeteli a tre suoli alternati col composto ben pigiato, onde vengano sparsi regolarmente e facciano bella mostra quando il pasticcio si taglia. Per ultimo, distendetegli sopra i grammi 30 di prosciutto a fette piuttosto sottili e copritelo. Potete coprirlo con pasta sfoglia a metà, come quella della ricetta numero 155, oppure con la seguente: farina grammi 250, burro grammi 80, spirito di vino cucchiaini numero 2, zucchero cucchiaini numero 2, rossi d'uovo numero 2, l'agro di uno spicchio di limone, sale grammi 5, acqua fredda se occorre. Con la norma di questo, salvo qualche variazione del caso, potete fare diversi altri pasticci di selvaggina, come sarebbe di cinghiale, daino e capriolo. Questo ritengo possa bastare per un pranzo anche di 20 persone.